Europa 24. E buongiorno da Alessio Maurizi e benvenuti a Europa 24. Dunque, come avete sentito anche nei titoli di GR24, è arrivato il giorno dell'attesa lettera del governo italiano a Bruxelles con i richiesti chiarimenti sui conti pubblici. Entro oggi il Ministero dell'Economia invierà all'Europa il proprio piano. Ne riparleremo dunque in giornata. Intanto parliamo invece di telefonia. Scatterà a metà giugno l'abolizione del roaming per i consumatori europei. Il roaming, lo ricordiamo, è il costo aggiuntivo applicato alle telefonate quando l'utente si trova all'estero. È infatti caduto l'ultimo ostacolo. È da anni una delle promesse dell'Unione Europea: azzerare i maggiori costi che un cittadino sostiene all'estero quando telefona o naviga in internet dal proprio telefonino. L'ultimo pezzo di un complesso meccanismo ad incastri è stato trovato questa notte ed è un nuovo schema di tariffe all'ingrosso, quelle cioè che un operatore, ad esempio italiano, paga all'operatore straniero quando il cliente italiano si trova all'estero. Dal 15 giugno, quando scatterà il roaming zero, un operatore pagherà 7,7 euro al gigabyte, per poi calare ulteriormente ogni anno fino al 2022. Il paradosso è che le tariffe del mercato libero all'interno dei confini nazionali sono già oggi più basse di quello regolamentato transfrontaliero, con il risultato che su molti profili tariffari l'operatore che deve garantire il roaming all'estero andrà in perdita. Ma se per i grandi gestori telefonici sarà più facile compensare tra di loro il traffico transfrontaliero, la sostenibilità per gli operatori più piccoli è a rischio. In ogni caso, dal 15 giugno scatterà ufficialmente il roaming a zero, cioè si pagherà solo quello che si pagherebbe all'interno dei confini nazionali, ma come già stabilito da tempo, con alcuni limiti per evitare abusi come il caso di chi stabilmente usa una SIM straniera. Insomma, roaming zero solo per chi viaggia. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 ore. Il percorso verso la Brexit. È atteso stasera il voto della Camera dei Comuni britannica sulla legge presentata dal governo di Theresa May per ottenere il via libera alla notifica all'Unione Europea dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, premessa dei negoziati formali per la Brexit vera e propria. Le previsioni dei media, indicano una netta maggioranza dei sì. Sia i conservatori sia i laburisti infatti si sono impegnati a far passare la legge nel rispetto della volontà popolare favorevole al divorzio da Bruxelles. E ora una buona notizia: l'Europa è sulla strada giusta per centrare gli obiettivi su energia e clima per il 2020, è quanto emerge dal secondo rapporto sull'Unione dell'Energia della Commissione Europea. L'UE ha già raggiunto e superato l'obiettivo sul taglio delle emissioni di CO2, le rinnovabili invece nel 2014 erano al 16%, l'obiettivo è al 20% nel 2020 del consumo totale di energia. E a proposito di ambiente, l'Italia non è in regola con alcune norme sull'inquinamento, che proprio in questi giorni non dà tregua alle città del nord. A Sofia, su numerose statue, sono state installate maschere antigas, in segno di protesta per l'aria inquinata. Bulgaria, Polonia, Romania e Italia sono notoriamente i paesi con l'aria peggiore d'Europa. E infatti anche i manifestanti che a Modena ieri aspettavano il ministro dell'Ambiente Galletti indossavano mascherine antismog, perché da giorni nella pianura padana si respira aria pesante di polveri sottili. Sull'onda emotiva anche quest'anno le regioni del nord promettono piani aria e azioni condivise, con il ministero impegnato a garantirne l'armonizzazione. La qualità dell'aria italiana però non è pessima solo al nord, ma anche al centro-sud. E così non deve stupire che la Commissione europea, secondo fonti di stampa, stia valutando l'apertura di una procedura di infrazione rispetto alla direttiva europea sulla qualità dell'aria che adottammo nel 2010 e alla quale siamo già stati richiamati nel 2015. Gli estremi ci sono e non ci sono, dice Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera. Dipende dai criteri che userà l'Unione Europea. Perché il problema dell'inquinamento urbano è un problema che riguarda tante aree dell'Europa. Certo, diciamo che oltre a preoccuparsi dei bilanci si occupasse anche dei polmoni del futuro, l'Europa farebbe l'Europa, sarebbe un oggetto più utile. Se la cosa avrà seguito, comunque, ci costerà immensamente in sanzioni, ma già ci costa incomparabilmente di più in vita e salute. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. È tutto, l'appuntamento con l'Europa torna in effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.